Allora, buonasera. Alberto Burgio è di casa in fondazione, ha anche recentemente parlato di un tema molto importante all'interno del ciclo sui classici della modernità, affrontando il tema Rousseau, uno dei temi a lui congeniali. Stasera sono molto felice di questa occasione che ci viene data di organizzare questo seminario, preferisco il termine seminario a presentazione di questo suo libro ultimo, che ha un titolo fortemente programmatico, e nonostante Auschwitz, il ritorno del razzismo in Europa, ma si badi, nel sottotitolo il ritorno è messo tra virgolette. Non si tratta propriamente di un ritorno, ma questa è la tesi del libro. Il razzismo è, secondo Alberto Burgio, un fattore costitutivo della modernità. E anche se si manifesta oggi in una situazione del mondo globalizzato segnata dai flussi migratori e che pone una serie di nuovi problemi, cioè noi assistiamo a fenomeni di razzismo esplicito, virulento, in paesi dell'Europa che consideravamo dei luoghi di civiltà, anche di conquiste sociali acquisite, anche addirittura nei paesi scandinavi ritorna il razzismo, anche in Olanda, anche in paesi abituati più di noi, molto più di noi italiani, al rapporto con le alterità. Sullo sfondo il problema Auschwitz, e qui nelle queste mie brevi parole in qualche modo di introduzione alla discussione, appunto Burgio non nega il carattere epocale di Auschwitz, che si colloca al centro della tragedia del secolo scorso come uno spartiacque. Non ritiene però che si tratti di un evento unico, anche se molti giuristi difensori dei diritti umani hanno voluto dopo Auschwitz interpretare per esempio la Dichiarazione Universale dell'ONU del 1948 sotto la clausola del mai più, ma questo mai più è stato tante volte violato nel corso dei decenni successivi e viene violato oggi dinanzi ai nostri occhi. È molto significativo il richiamo a Primo Levi da questo punto di vista. È stato proprio Primo Levi a saldare insieme il carattere paradigmatico di Auschwitz, della Shoah, con la sua non unicità, e ha messo in guardia sottolineando anche l'idea che qualcosa di simile ad Auschwitz o addirittura anche più grave di Auschwitz si potrebbe appunto verificare. Per capire la tesi di Burgio leggerò una frase che mette in luce come il razzismo lo si possa spiegare unicamente sostituendo all'onda breve dell'analisi storica la globalizzazione, che poi tra l'altro questa non è la globalizzazione ma è una globalizzazione. È l'ultima di tante ondate di globalizzazione che abbiamo avuto nel corso della storia moderna, direi anzi sappiamo benissimo che la storia moderna nasce come evento globale, la conquista del nuovo mondo, che poi è stata anche l'inizio di uno dei più spaventosi genocidi che l'Occidente cristiano ha perpetrato nei confronti di altre popolazioni, un genocidio spaventoso, è stata anche l'apertura dei mari che ha consentito l'accaparramento di materie prime. Senza l'accaparramento di materie prime è letteralmente impensabile la stessa genesi del capitalismo industriale. E tutto questo naturalmente richiede l'attivazione appunto di una prospettiva, come dice Burgio, che è un filosofo molto attento alla storia, molto attento agli insegnamenti della storia, e tant'è vero che in questo libro noi troviamo anche dei capitoli che dialogano in modo ravvicinato con gli storici. Mi riferisco in particolare, ma non soltanto, al capitolo quinto, razzismo e nazionalismo, no? Dove c'è un'analisi anche dei caratteri del nazionalismo italiano. Ecco, per comprendere la tesi leggerò un brano del primo capitolo, dove Burgio dice: capire il razzismo implica assumere una prospettiva di lungo periodo, comprendere le profonde connessioni che lo legano alla storia europea. Ma in questa prospettiva di lungo periodo le illusioni cadono. Con ogni probabilità ha ragione chi sostiene che vi è una continuità storica che fa dell'Europa liberale, è una frase di Traverso, un libro che è dedicato proprio alla violenza razzista, che vi è una continuità storica che fa dell'Europa liberale un laboratorio delle violenze del Novecento e di Auschwitz, un prodotto autentico della civilizzazione occidentale. E continua: a parlare di continuità pone diversi problemi e può a sua volta favorire fraintendimenti. È bene quindi chiarire subito che continuità non significa ferrea causalità, così come l'idea del laboratorio non evoca la produzione di conseguenze necessarie. Affermare la piena appartenenza dello sterminio degli ebrei alla storia europea non comporta alcun determinismo. È l'indicazione di una filiazione, di una genealogia, che non va persa di vista se si vuole capire ciò che è accaduto e, nella misura del possibile, estirpare le premesse che lo hanno reso possibile. Questo mi pare un punto molto importante dal punto di vista concettuale. E cioè la genealogia non equivale a un assunto deterministico, né il determinismo delle origini, degli archetipi, né il determinismo delle conseguenze, nel senso di una filosofia della storia destinale. Vi è dunque un fattore patogenetico della modernità, vi è una sorta di fattore patogenetico all'interno della modernità. Si potrebbe dire, e qui io riprendo una mia tesi che a sua volta è una rielaborazione e ridefinizione abbastanza radicale della tesi di Norberto Bobbio. In un saggio di molti anni fa, Bobbio ha parlato delle origini della ideologia europea proprio in una scena influente che è alla base del concetto europeo di politica e anche del concetto europeo di democrazia. L'Europa nasce con la sua idea di politica sulla base di una distinzione netta fra greci e barbari, tra i greci, che sono un popolo libero, e i barbari, che sono per natura non liberi. Anche la tirannide viene spiegata all'interno di questa prospettiva come una forma di governo degenerata, illegittima, perché esercitata su un popolo di liberi. mentre invece il dispotismo sarebbe una forma di dominio legittima, in quanto esercitata su una massa di non liberi. Guardate bene, in questo schema si può vedere, se volete, già un DNA, no? Un DNA dei problemi che verranno poi al pettine con la modernità. Che non dimentichiamo che la genealogia di Burgio è una genealogia che riguarda l'Occidente moderno, cioè l'Occidente segnato dal capitalismo moderno. Se noi assumiamo questa genealogia, diviene problematico parlare, come fa Habermas, di Occidente diviso e giocare su un Occidente in qualche modo buono, liberal democratico, che difende i diritti, invece un Occidente appunto cattivo che negherebbe i diritti e che sarebbe alla base del totalitarismo, o addirittura la formula che viene usata da altri, una formula che con Bush l'Occidente sarebbe andato contro se stesso. Dietro una prospettiva di questo genere vi è l'idea che i problemi dell'umanità si risolverebbero se l'Occidente si ricomponesse, mentre io ritengo, e mi pare che anche Burgio ritenga la stessa cosa, i problemi dell'umanità non si risolvono ricomponendo le tradizioni dell'Occidente, ma affrontando invece la questione di una rinegoziazione dell'universale. Auschwitz dunque non è stato una parentesi, un tragico incidente, una interruzione di magnifiche sorti progressive, ma è stata, e qui io riprendo un argomento che è stato alla base tanto delle versioni di sinistra del comunismo europeo, quanto in parte della stessa scuola di Francoforte, la parte buona, Adorno. Auschwitz è una tragedia della cultura, cioè è dentro l'umanesimo occidentale che abbiamo il cuore di tenebra, nelle categorie dell'umanesimo così come si sono costituite dalle origini, una prospettiva molto diversa da quella della maggior parte dei filosofi, penso anche quelli più avvertiti. Husserl diceva: il guaio dell'Europa nasce dalla scienza moderna, dalla scienza galileiana, basta ritornare all'umanesimo greco perché ci sia la ricomposizione. No, l'umanesimo greco ha esattamente in sé il DNA in qualche modo patogenetico. E dentro la modernità, e qui ovviamente procedo molto schematicamente, dentro questo DNA della modernità europea occidentale abbiamo però anche un altro tipo di dimensione, che è il conflitto interno. Questo conflitto viene messo in campo da Burgio con una categoria che io amo moltissimo, è guerra civile. Vi è una guerra civile latente nell'intera vicenda della modernità, che a volte appunto esplode in espressioni patenti di guerra civile, che può essere una guerra civile con disegno rivoluzionario o disegno reazionario, ma in ogni caso questa, diciamo, sorta di fenditura che attraversa l'intera modernità mi pare molto importante. E quali effetti determina? Come si manifesta questa spaccatura, questa guerra civile di lunga durata? Non soltanto la lunga guerra civile del XX secolo, ma la guerra civile che comincia con conflitto fra alternative emancipative, liberatorie, rivoluzionarie, forme di rivoluzione conservatrice o di reazione, si manifesta in una inversione del rapporto tra eccezione e norma. Questa è la diagnosi di Burgio. L'eccezione diventa la norma e la norma diventa una fase provvisoria di normalizzazione, di assestamenti eccezionali. E addirittura il diritto normale diventa il diritto che si è normalizzato attraverso fasi di assestamento egemonico. Questo determina una serie di effetti anche dal punto di vista della formazione dei soggetti storici, quello che potremmo chiamare uno statuto paradossale della normalità. La normalità acquista uno statuto paradossale, quella che Burgio chiama nel libro una normalità perversa. Una normalità perversa è propria della psicologia di soggetti come i nazisti, che in qualche modo organizzavano sistematicamente, in maniera ragionieristica, meticolosa, amministrata, il genocidio nei lager. E questa normalità ha una natura ben precisa: non erano dei nevrotici, erano degli psicotici, una sindrome ben diversa dalla nevrosi. Quindi la normalità perversa si manifesta in caratteri psicotici che potremmo ricondurre a una sorta di continuum tra la reificazione generalizzata indotta nel corso della modernità capitalistica dalla forma di merce, dove anche gli individui vengono trattati come merce, come merce di consumo, e le forme di potere totalitario. Coloro che hanno reso possibile la macchina del genocidio erano uomini normali. Non erano bestie, non avevano elementi di esplicita aggressività, erano uomini comuni, ordinari, banali, che procedevano sulla base di un carattere sistemico. Quindi questo carattere sistemico del razzismo, questa sorta di contabilità dello sterminio è la chiave per comprendere la lunga durata e il carattere consustanziale del razzismo alla modernità occidentale, dove evidentemente il dispositivo che si veniva affermando era quello della logica dell'identità. Cioè la logica dell'identità è la logica che vede l'altro soltanto come una minaccia o un oggetto, una cosa da assoggettare, da stigmatizzare. Il tema dello stigma gioca un ruolo importante nel libro, da mortificare simbolicamente o da uccidere materialmente. Guardate bene, anche in democrazia le forme di assoggettamento a volte sono simboliche, non materiali, non sempre, spesso insomma anche ritornano anche materialissime, ma svolgono la stessa funzione quando l'altro viene mortificato, viene assoggettato e sottoposto a una mortificazione simbolica. Quindi noi abbiamo a che fare qui con il meccanismo capitalistico dell'assoggettamento, che è un meccanismo in qualche modo duplice di reificazione, gli altri ridotti a cose, ma anche di reiezione. Le cose che vengono, come gli oggetti che vengono consumati, vanno gettati via. Cioè noi viviamo in un mondo, nel mondo globalizzato, noi siamo davanti alla scena di un mondo fatto di uomini, di forza lavoro, che sono corpi usa e getta, corpi usa e getta. La logica dell'usa e getta è esattamente la logica che fa da riscontro alla logica dell'identità. le parole malate che affiorano nel dibattito contemporaneo, una serie di parole stigmatizzanti che affiorano nel linguaggio, nel lessico contemporaneo, mi pongono anche davanti a un altro problema: se non ci sia una profonda affinità fra la logica del genocidio e il paradigma economico dominante come forma di comportamento razionale, anche in economia, l'idea della scelta razionale, dove il mondo si divide in soggetti che sono in grado di operare e procedere sulla base della rational choice, della scelta razionale, dove tutti gli altri, quelli incapaci di scelta razionale, cioè di calcolo economico costi-benefici, sono considerati dei barbari, dei reietti, appunto, e se non si dia una continuità tra questa logica esclusivista della scelta razionale e l'idea, diciamo, latente, che poi può esplodere e divenire patente, invece esplicita, del genocidio. La posta in gioco, come vedete, è molto alta ed è, a mio parere, oggi come ieri, oggi più di ieri, nel mondo globalizzato, la logica della sostenibilità da parte dell'umanità di un mostro economico, appunto psicologico, social-psicologico, come quello creato dal dominio capitalistico moderno. E questo era quanto sentivo di dire dalle cose che avevo in qualche modo ricavato dalla lettura del libro di Alberto, ma ovviamente restituite in modo molto schematico. E do la parola a Gianluca Bascherini, che è un giurista, è un costituzionalista, e quindi affronterà naturalmente molti dei nodi del libro anche da quella prospettiva. Grazie. Io, vabbè, tanto volevo ringraziare la Fondazione Basso per l'invito. Ho partecipato varie volte alle iniziative organizzate dalla Fondazione e, come dire, hanno sempre tratto importanti suggestioni ed insegnamenti. E difficilmente avrei pensato, come dire, di essere invece, per quanto piccola, parte attiva in una di queste iniziative. Questo sinceramente non lo dico per captatio benevolenzia, ma lo dico, come dire, per dare un'idea dell'emozione che provo a trovarmi qui in questo momento, e per scusarmi anzitempo se questa emozione potrà a volte inciampare, come dire, il filo delle parole. Mi scuso inoltre con l'autore, con Alberto Burgio, se comincerò a parlare del suo libro parlando di un altro libro. Io ho letto, nonostante Auschwitz, poco dopo aver finito il libro di Roberto Esposito, Pensiero vivente, e mi è sembrato di trovare nell'ordito di metodo su cui poggia il lavoro di Alberto Burgio quella capacità, quel mos italicus di un pensiero filosofico capace, cito su questo Esposito, di esercitare uno sdoppiamento dello sguardo puntato al contempo sull'attualità più bruciante e sui dispositivi di lungo ed anche lunghissimo periodo. Questa è una cosa che già aveva ricordato adesso, Giacomo Marramao, sull'importanza di questa prospettiva di lungo periodo nell'approccio storico con cui Alberto affronta il tema. Una capacità, appunto, di sdoppiare lo sguardo, di tenere assieme storia e attualità, che trovo nel libro di Alberto e che penso si connetta ad una capacità, già, anche questa già richiamata da Giacomo, di ragionare di filosofia parlando d'altro. Ha già ricordato i richiami a Primo Levi nel libro, quindi ragionando di letteratura, ma soprattutto ragionando di storia. Una storia, peraltro, e qui, come dire, emerge credo anche l'Alberto studioso di Gramsci, una storia che è sempre poi fortemente segnata in senso comparativo, Said direbbe contrappuntistico, cioè la capacità di indagare una vicenda di storia delle idee riportandola continuamente a vicende storiche concrete. Un approccio storico comparativo che, assieme all'attenzione che Alberto dedica al fattore linguistico, credo che siano, come dire, le componenti principali che gli permettono poi di maturare un approccio critico al tema, come dire, mostrando una capacità rara di indagare le nuove forme che assumono le vecchie logiche senza starsi troppo a preoccupare, come dire, della fissità attraverso la quale siamo abituati a pensare i concetti senza starsi troppo a preoccupare di tassonomiche partizioni, e quindi individuando il lavorio di dispositivi razzisti anche dove di razzismo non si parla. Questo libro aggiorna e sistematizza in un sistema peraltro mai chiuso in se stesso, ma in un sistema che rimane costantemente aperto, una riflessione che Alberto Burgio porta avanti, direi ormai occhio e croce, da un quindicennio su questi temi. E mostra, come dire, indaga, va a vedere il razzismo da vari punti di vista. Questa riflessione, direi, muove da una duplice premessa, in parte già anticipata nelle parole di Giacomo Marramao. Il razzismo non è scoria della modernità, ma ne è un suo prodotto fisiologico, è la risposta, dice Alberto, alla paura, alla perdita dei sistemi tradizionali di riferimento che la modernità ha portato con sé. È la risposta che offre una Weltanschauung ordinata in gerarchie naturali e, proprio in quanto naturali, indiscutibili e legittime. Risposta che si afferma soprattutto a partire dalla crisi della modernità, cioè da quell'ultimo quarto di Ottocento entro il quale, come dire, il liberalismo esaurisce la sua spinta propulsiva, entro il quale Massimo Severo Giannini parlava di un sostituirsi dello Stato pluriclasse allo Stato monoclasse, entro il quale quella tensione, già richiamata anche questa da Giacomo, fra universale e particolare, fra nazionalizzazione e mondializzazione, raggiunge una polarità probabilmente inedita. Questa è la prima delle premesse da cui muove il libro. La seconda delle premesse da cui questo libro muove è che il successo della coinè razzista, del dispositivo razzista o della macchina razzista, Foucault e Furio Jesi sono molto presenti, come dire, come riferimenti concettuali nell'opera di Alberto, il successo di questa coinè nella quale si mescolano razzismi alti e razzismi bassi, cioè una communis opinio razzista e il razzismo di Stato assieme a quello culturale o a quello scientifico, non nasce dalla sua capacità, qui cito Foucault, di veridizione, non nasce dalla sua capacità di offrire, come dire, di descrivere il reale, ma dalla sua componente simbolica e dalla sua capacità compensativa, cioè, scrive Alberto, dal soddisfare pulsioni ed offrire risposte semplici a questioni complesse, trovando sempre nuovi colpevoli per quello che ci circonda. Ci mostra Alberto come questi dispositivi siano oggi all'opera nei confronti dei migranti, ed essendo quello, ricordava giustamente prima Marramao, io faccio il costituzionalista, poi costituzionalista un po' indisciplinato, nel senso che per formazione e sensibilità ho sempre avuto una forte attenzione alla storia, però ecco, diciamo che forse quello è il tema, questo dell'immigrazione, su cui ho più ritrovato, ecco, per quanto riguarda il mio percorso, le parole di Alberto. Ecco, Alberto a questo proposito ci mostra come i dispositivi razzisti siano oggi all'opera in primo luogo nei confronti dei migranti, e ci mostra allo stesso tempo quella che lui definisce una vocazione inclusiva o totalitaria del razzismo, cioè la capacità di inventare razze, la capacità di colpire soggetti diversi, dispositivo che mentre sembra riguardare solo gli altri in realtà finisce per investire spesso inconsapevolmente anche noi stessi. Al centro del libro, e su questo veramente vado veloce perché già Alberto, immagino anche chi interverrà dopo di me, Alessandro, diranno cose molto più importanti delle mie, al centro anche geografico del libro sta quell'apogeo, quell'abisso del razzismo europeo che sono state le esperienze naziste e fascista, indagate appunto anche loro non come una parentesi ma come calate in un contesto, individuandone le specificità, le continuità e le discontinuità rispetto alle rispettive vicende nazionali passate e future. Per quanto concerne il razzismo italiano, Alberto evidenzia bene quali ne sono le peculiarità, questa singolare mescolanza di antislavismo, di antimeridionalismo, di antisemitismo cattolico, di colonialismo, la radice coloniale del razzismo italiano, che secondo me rimane centrale, o almeno è che lo stesso Alberto ne sottolinea l'importanza, proprio perché ci dice è quella normalità, ed anche lì citando Traverso, lo stesso libro che richiamava prima Giacomo, è con l'esperienza coloniale che il razzismo diventa normalità per il senso comune, che si afferma un senso comune razzista nella società italiana. Normalità, aggiungo due parole a quello che aveva già detto Giacomo, che non è, che, e cito ovviamente da Alberto, che non è tanto irrilevanza quanto piuttosto la sua inerenza alla vita quotidiana. Lì mi veniva in mente, a proposito di Auschwitz, oltre alle parole di Primo Levi, le pagine di Vassili Grossman in Vita e Destino, quando parla del funzionamento di Auschwitz, e ne parla veramente in una logica industriale. Allora lì torna, certo, secondo me, come dire, andrebbero meditate le parole di Giacomo, certo, sulla vicinanza fra l'homo economicus e la logica genocidiaria. Ovviamente, ragionando di razzismo italiano, Alberto non poteva non centrare la propria attenzione su quella che è stata la rimozione della memoria storica del razzismo italiano, una rimozione che comincia in corso d'opera, probabilmente comincia già in età fascista, in età coloniale, creando una serie, dice Alberto, di autorappresentazioni, il mito degli italiani brava gente, il mito delle virtù patrie. E qui anche degli aspetti che a prima vista colpiscono. Alberto ci dice: la stessa retorica resistenziale in un certo modo ha contribuito a determinare un appannamento di quelle che sono state le responsabilità del fascismo su questo terreno. Ma su questo vorrei tornare. Le autorappresentazioni e una ormai risalente operazione che Alberto definisce di riduzionismo storiografico, del quale Renzo De Felice è stato, come dire, il principale portavoce, e le cui tesi vengono passate da Alberto a un setaccio fitto, mostrandone quella che è la funzionalità di quell'operazione culturale. Forse, ora non sono uno storico e quindi insomma, come dire, mi occupo di storia di Frodo, quindi non azzardo risposte, ma forse anche al di là delle stesse intenzioni di De Felice, quella tesi si è dimostrata funzionale a quello che impropriamente oggi chiamiamo passaggio fra prima e seconda repubblica. E qui il libro di Alberto, come dire, va oltre il tema del razzismo per affrontare il tema dell'uso pubblico della storia, un uso pubblico che è un uso immediatamente politico della storia e della memoria, mostrando come questa rimozione non lavori solo sul passato, ma lavori in primo luogo sul presente, come questa rimozione non obliteri soltanto, come dire, le responsabilità del fascismo, ma anche dello Stato liberale e della Chiesa cattolica, ma finisca per deprimere gli anticorpi, per anestetizzare oggi le intelligenze di fronte ad affermazioni del razzismo sempre più drammatiche e sempre più evidenti. Un'anestesia, un appannamento dei sensi che passa, e su questo condivido pienamente le parole di Alberto, anche attraverso una spettacolarizzazione mediatica della memoria, attraverso una sua banalizzazione, attraverso l'organizzazione di giornate della memoria che servono, come dire, a lasciare da parte il lavoro, come dire, quotidiano e faticoso di ricercare e di ricordare, quel lavoro che solo può, come dire, favorire, solo può dare slancio a quella che ancora una volta Michel Foucault chiamava quella postura critica del soggetto, e che solo appunto può venire dallo sforzo di legare la riflessione ai conflitti in atto. Rimozione che Alberto, come dire, una rimozione peraltro che per Alberto puntava in primo luogo, scrive lui, ad appannare la diversità delle ragioni in campo. Tornano alla mente a tutti, è facile ricordare, come dire, le parole che un ex presidente della Camera, non di destra, disse a favore dei ragazzi di Salò. Io forse in una chiave ancora più radicale ritengo che il senso di quell'operazione, soprattutto oggi, non è tanto appannare la diversità delle ragioni quanto cercare di espellere completamente il conflitto dalla sfera pubblica, cercare di disegnare lo spazio della sfera pubblica come uno spazio liscio, con un'immagine pacificata da fine della storia. Un uso politico della memoria, questo, che proprio per il suo carattere bipartisan ci invita a fare i conti non solo con le operazioni di riduzionismo storiografico, ma probabilmente ci chiede di fare i conti anche con tutta quella geografia dei primi anni del secondo dopoguerra, con la geografia della Repubblica antifascista, che ha contribuito, come evidenzia lo stesso Alberto, ad appannare in un certo modo quelle responsabilità ed anche quella, come dire, quelle costruzioni, quella retorica della Repubblica antifascista, retorica non lo dico in senso negativo, lo dico veramente nel senso più classico del termine, aveva una sua funzione storica, come dire, legittimava anche quella un progetto politico evidente. Penso a come da quelle letture siano rimaste lungamente fuori altre interpretazioni della resistenza e del processo costituente, qual era ad esempio quella della sinistra azionista, della resistenza come rivoluzione, non solo come guerra civile, appunto. Dicevo, questo, come dire, per parlare di quella che è l'attenzione che nella prospettiva di metodo di Alberto viene data alla storia. L'altro aspetto che dicevo, secondo me molto importante, è il rilievo che assume il fattore linguistico. Alberto mette a tema esplicitamente questo fattore ragionando della politica linguistica del nazismo, ma credo che vada oltre l'attenzione di Alberto a questo aspetto, a questa politica. Attenzione al fattore linguistico, che da una parte è il primo fattore che ci permette di intercettare i mutamenti dell'opinione pubblica, di leggere dinamicamente concetti che verrebbe quasi naturale pensare come fissi, ma nella riflessione di Alberto non si limita il fattore linguistico a favorire una dinamizzazione nella lettura dei concetti, ma costituisce ad esempio trade union fra il razzismo biologico e quello culturale, costituisce al contempo punto di vista a partire dal quale leggere il problema della comunità, perché Alberto, ragionando di razzismo, finisce spesso per ragionare di comunità, di nazione, di cittadinanza, di demos e di ethnos. Penso alle pagine, c'è un passaggio secondo me molto bello in cui Alberto dice: pensate a come la Germania razzista, per disarticolare quella funzione di ponte che la lingua svolge, Alberto ragiona sulla lingua come dispositivo di inclusione e di esclusione, utilizzando le due metafore dello steccato e del ponte. Ecco come, per disarticolare quella funzione ponte della lingua, i nazisti crearono, come dire, inventarono una comunità costruita sul sangue, data la comunanza linguistica che univa ariani ed ebrei. Ecco appunto questa capacità di Alberto, dicevo, di traguardare il problema della comunità, il problema della nazione, il problema della cittadinanza attraverso la lente del razzismo, credo che faccia ad esempio del libro di Alberto un'importantissima integrazione a quella monumentale opera che Pietro Costa ha fatto sulla cittadinanza in Europa, e soprattutto alle sue pagine sul rapporto fra cittadinanza e razzismo. Qui veramente sul rapporto con il nazionalismo ci sarebbe da leggere da presso le pagine che ha scritto Alberto, e alcune cose le ha già dette Giacomo, e sicuramente tornerà anche nelle parole, immagino, di Alessandro, quindi non mi soffermo su questo aspetto. Richiamo solo ancora una volta, per attenermi all'oggi, quel richiamo di Alberto a dire come non si tratti oggi di rimuovere il tema dell'appartenenza, ma di promuovere di questa un'immagine aperta, muovendo in primo luogo, cito le parole di Alberto, da un rapporto realistico con la storia, da una visione mondana della cittadinanza e della comunità, che faccia perno appunto su un'idea concreta di cittadinanza disegnata a partire dai soggetti che qui ed ora effettivamente partecipano. Nonostante Auschwitz, ovviamente, la prospettiva di lungo periodo e anche di lunghissimo periodo che segna il libro è già stata richiamata, ed è stata già richiamata il fatto che questa prospettiva di lungo periodo non serve a raccontare una storia, come dire, univocamente destinata ad un fine, ma di questa storia Alberto ci mostra scarti, ci mostra continuità e discontinuità. Abbiamo già detto di quello che fu lo scarto del passaggio nazista e fascista nella vicenda del razzismo europeo. Mi limito a due altri aspetti che Alberto mette in luce. Quel passaggio fra l'essere il razzismo, almeno fino al secondo dopoguerra, uno strumento in primo luogo di quel nazionalismo di Stato che prende ad affermarsi nell'ultimo quarto di Ottocento, e nell'essere invece, soprattutto a partire dagli ultimi 30 anni, strumento di un populismo, strumento di una destra populista, e di una destra, come dire, che usa di questi strumenti tanto quando è di lotta, tanto quanto è di governo. E purtroppo, aggiungo, come dire, talvolta questi atteggiamenti populisti li ritroviamo anche in disinvolti rametti della sinistra, penso, e su questo tornerò fra breve, penso a certe ordinanze municipali adottate da sindaci non certo di destra. Altro passaggio su cui Alberto richiama l'attenzione è quel passaggio fra il razzismo gerarchico e razzialista, che segna la modernità, ad un razzismo invece culturale, culturalista e differenzialista, anzi, degli ultimi 30 anni, dove ovviamente non muta la funzione stigmatizzante, ma mutano i codici, ed appunto questa prospettiva storica che permette Alberto di non impiccarsi a quelle concettualizzazioni, ma di riuscire a vedere il razzismo anche dove di razzismo non si parla, a trovarlo appunto in questi discorsi dove le retoriche non sono più quelle della gerarchia razziale o dello scarto fra civiltà e civilizzazione, ma dove le retoriche sono quelle dello scontro di civiltà, della difesa delle tradizioni e delle identità, non di rado la stessa retorica dei diritti umani. Dicevo, gli anni 90 segnano un discrimine da questo punto di vista, e qui Alberto dedica, secondo me, delle pagine molto interessanti al caso jugoslavo, nel quale probabilmente si mescola, come scrive Alberto, tracce del vecchio e del nuovo razzismo, o dei vecchi e dei nuovi dispositivi razzisti. Mi limito invece a dire qualcosa su quella costruzione del nemico interno, del migrante come nemico interno nella recente vicenda italiana, rispetto alla quale Alberto ci dice essere, con le dovute precisazioni che aveva già fatto Giacomo, un laboratorio della modernità. La vicenda italiana oggi credo che evidenzi con particolare nitore le saldature fra questo razzismo e il populismo che ci governa, peraltro populismo che ha successo, come abbiamo già detto, anche in quadranti geografici che, come dire, istintivamente saremmo portati a pensare al riparo da certe dinamiche. Un populismo che, come dire, che pensa il cittadino come consumatore e la polis come una sorta di centro commerciale dal quale tenere fuori i soggetti che disturbano. Entro questa deriva sicuritaria in atto, ci dice Alberto, il razzismo torna a svolgere quella sua funzione di dispositivo confinario. Torna ad essere risposta semplice e nociva, risorsa simbolica a richieste di ordine, sicurezza e decoro che sembrano, parole queste che sembrano sempre più fantasmatiche. Risposta al diffuso senso di insicurezza che è doppiamente fuorviante, primo perché sposta il problema dal terreno della sicurezza sociale al terreno della pubblica sicurezza, secondo poi perché anziché offrire una risposta materiale a quei problemi offre una risposta meramente simbolica e appunto compensativa, individuando un nuovo nemico su cui scaricare colpe. Oggi quest'ordine simbolico, credo sia chiaro a tutti, insomma, connota in primo luogo il pacchetto sicurezza nei suoi dispositivi più direttamente riguardanti le popolazioni immigrate e quelle rom che vivono in Italia. Razzista oggi, come dicevo prima, sono tanta parte delle ordinanze municipali adottate nei confronti di cittadini immigrati. Razziste sono le ronde, razzista è la criminalità la criminalizzazione dell'irregolarità migratoria che viene a stravolgere quella che Franco Bricola aveva chiamato il volto costituzionale del diritto penale, quella lettura garantista della penalità che si era affermata non senza sforzo fra gli anni 60 e 70 in Italia. Razzista, aggiungo, lo scandaloso ritardo anche nella prospettiva europea del diritto italiano a fare i conti con le esigenze di tutela e di riconoscimento dei diritti delle popolazioni rom. Razzista è il modello di servizi sociali che la Lega viene portando avanti nelle scuole dell'infanzia in materia di mense scolastiche o con proposte come quelle delle classi ponte. Razzista è un sindaco che davanti alla morte di 4 bambini non trova niente di meglio da fare che battere cassa per promuovere nuovi allontanamenti, sempre più fuori dal centro, sempre più lontani dal raccordo. Il libro d'Alberto però, appunto, e torno su questo aspetto che per me è abbastanza centrale, ci dice che il razzismo non riguarda solo gli altri, ma che quella vocazione inclusiva del razzismo, che quella vocazione totalitaria del razzismo è capace di colpire chiunque. Che il razzismo non tocca solo quello che si muove ai margini della società, perché, scrive Alberto, è un'ideologia funzionale alla costruzione di modelli sociali complessivi che assegnano un luogo ben determinato a tutte le componenti della popolazione. Allora, da questo punto di vista, mi viene in mente che nei confronti degli immigrati il razzismo non viaggia solo nelle politiche di polizia degli stranieri, non viaggia solo nelle cose che io ho detto fino ad ora, ma che probabilmente viaggia anche con una più forte vocazione mimetica all'interno delle politiche di integrazione, che probabilmente c'è una cassetta degli attrezzi razzista che viene a colpire l'immigrato che riesce a mantenere una condizione di regolarità di soggiorno e che mostra, come dire, un'attitudine alla mobilità sociale che spaventa, laddove invece probabilmente il clandestino impiegato al nero è un immigrato che nell'ottica di un ordine sociale complessivo sta al suo posto. Allora, da questo punto di vista, forse razzista è anche la recente regolarizzazione che si è limitata, per usare quella nominazione svalorizzante di cui ci parla Chiara Saraceno, alle golfe e alle badanti. Richiamo l'importanza di questa vicenda, della vicenda italiana, delle politiche migratorie italiane come laboratorio, perché credo che il contrastare il razzismo, che il proporre un modello di politica migratoria radicalmente altro, non ci riguardi solo per motivazioni altruistiche, ma ci riguardi proprio per quella vocazione inclusiva di cui parla Alberto in ordine al razzismo. Ci riguarda perché nel momento in cui ammettiamo, come oggi accade, limitazioni indecenti, oltre che incostituzionali, dei diritti fondamentali di un immigrato o di un rom, nulla impedisce che prima o poi quelle stesse limitazioni potranno riguardare noi. Qui è quasi banale davanti a questo auditorio ricordare come terminano quelle parole di Otto Niemöller, quando, del pastore, scusate, Otto non credo fosse il nome, ho sbagliato, di Niemöller, il quale dice: quando sono venuti a prendere me non c'era più nessuno che poteva protestare. Ecco, questo per dire, come dire, che le vicende riguardanti l'immigrazione oggi sono un segnalatore d'incendio, sono un fattore, sono cartina tornasole di quella che è la tenuta dal punto di vista delle garanzie e dei diritti delle nostre tavole costituzionali. Mi avvio veramente rapidamente a concludere. Da questo punto di vista, allora, trovo pienamente condivisibili le parole che Alberto scrive ragionando criticamente attorno ai principali modelli delle politiche di integrazione oggi in atto, dell'assimilazionismo francese, che Alberto chiama modello olistico, o di quel modello del melting pot più tipico, dei quadranti anglosassoni. Esperienze di integrazione, modelli di integrazione, anzi, che nella loro diversità finiscono per convergere su una etnocentrica superiorità che inferiorizza razzisticamente l'altro. E qui mi sento di sottoscrivere appieno le parole di Alberto quando dice: qui si tratta di lavorare ad un'idea di integrazione, di pensare l'integrazione non come un pranzo di gala. È ovvio che come qualsiasi convivenza genera conflitti. Di pensare che non si tratti di scrivere nuovi trattati sulla natura umana, ma di andare alla ricerca di buone pratiche di governo, di pensare un modello di integrazione in cui tolleranza, in cui l'approccio tollerante e l'approccio egualitario si integrino e si correggano reciprocamente, ma soprattutto pensare a un processo di integrazione che si svolge entro una società che costituisca risultato aperto di una incessante ricerca collettiva e basata sul riconoscimento di una diversità intesa come pari dignità di ciascuno. Ecco, questo richiamo alla pari dignità, almeno per noi giuristi, è forte, è quello che sta, è il precipitato dell'articolo 3, primo comma. Quella pari dignità di cui Jaime Pintor nel sangue d'Europa ci diceva è capacità di distinguere secondo valore. Terminata la lettura del libro, ovviamente, rimangono aperte le domande, rimangono le cose che avresti voluto leggere e che non hai letto, avresti voluto che continuasse. Allora, su questo, porto veramente due domande, ma più a contributo per il dibattito che altro. Da una parte mi rimangono dubbi sulla riconducibilità che con molte cautele Alberto opera delle discriminazioni di genere al dispositivo razzista. Lo stesso Alberto sottolinea come negli ultimi 30 anni le discriminazioni di genere viaggino secondo binari che non sono quelli propriamente razzisti. Quello che mi chiedo è se, riconducendo il sessismo al razzismo, non si rischi di fare del razzismo, e condividendone peraltro l'impianto critico che anima questa operazione, non si rischi di fare del razzismo un concetto oltremodo onnicomprensivo. Mi chiedo se, per quanto riguarda le discriminazioni di genere, più che ragionare a partire dalla matrice eurocentrica, scusate la brutta parola, occidentocentrica del razzismo, non sia più utile ragionare attorno alla trasversalità delle strutture sociosimboliche patriarcali, che si innestano a loro volta su strutture sociali e culturali diverse fra loro, orientali ed occidentali, settentrionali e meridionali, abbienti e non abbienti, mono e politeistiche. Se l'approccio sul tema, innanzitutto, non debba muovere, come scriveva qualche anno fa Ida Dominigliani, dall'apertura di un conflitto maschile contro i comportamenti violenti maschili. E da giurista ritengo che l'apertura di questo conflitto maschile passa anche attraverso un ripensamento di quel soggetto dei diritti che connota la modernità. E qui arrivo al secondo punto interrogativo che mi rimaneva, e lo dico brutalmente solo per questioni di tempo, che corrono. Mi chiedo se non rimanga in ombra, nella lettura che Alberto fa, in questa bella lettura del razzismo, quella che è il razzismo interno a quella tendenza all'eguagliamento che secondo Alberto connota la modernità. Il libro stringe il fuoco giustamente sul razzismo europeo, anzi aggiungerei sul razzismo continentale europeo, un razzismo senza razze del quale l'antisemitismo costituisce paradigma. A questo proposito, scrive Alberto, il caso delle colonie e dei paesi in cui si sviluppa il fenomeno della schiavitù è evidentemente diverso. Ecco, io volevo chiedere, ma siamo sicuri che è proprio un'altra storia? Siamo sicuri che proprio in quell'ottica di lungo periodo, di cui tu giustamente, come dire, da cui muovi giustamente, non si registrino in fondo prestiti e interazioni non solo e non tanto fra queste diverse declinazioni del razzismo, cioè fra razzismo coloniale e razzismo antisemita, ma se non si registrino prestiti e interazioni fra il razzismo che si produce a ridosso del più risalente colonialismo e la costruzione del soggetto di diritti tipico della modernità? Queste sono cose su cui, come dire, per me è un autore prezioso per capire, per investigare questi temi, rimane Edward Said, più che non i successivi, come dire, postcoloniali. E su questo mi sento di condividere, scusate la battuta, ma mi sento di condividere le affilate osservazioni che Alberto muove allo scarto che c'è fra Foucault e i foucaultiani. Credo che lo stesso si possa dire, come dire, fra l'impostazione solidamente wichiana e gramsciana della riflessione seidiana e invece poi, come dire, gli epigoni postmoderni del postcolonialismo. Ecco, mi sembra, ecco, che da questa lettura quello che rimane in ombra è il razzismo dei campioni della liberal democrazia, è il razzismo dello sguardo che Tocqueville getta sull'Algeria, è il razzismo di un John Locke che scrive nel secondo trattato sul governo che all'inizio tutto il mondo era America, evidenziando come quel soggetto giuridico astratto, protagonista dell'antropologia politica, del moderno discorso della cittadinanza, implichi già in sé, come ci ha ricordato Chiara Giorgi in un recente convegno sull'immigrazione, il soggetto coloniale. Lo implica e allo stesso tempo lo rimuove in quanto perturbante. Mi chiedo se non rimanga in ombra il razzismo che corre sotto pelle alle rivoluzioni americane e francese di fine Settecento, un razzismo che scompare dalle narrazioni mainstream di quelle rivoluzioni e che ritroviamo in lavori come quelli di Du Bois o in lavori come i Giacobini Neri di James. Mi chiedo se non rimane in ombra anche il razzismo che nel corso del Novecento ha connotato tante volte i comportamenti dei partiti e dei sindacati, dei partiti operai, spesso eccessivamente ondivaghi fra internazionalismo proletario e difesa delle classi lavoratrici autoctone. Io ho finito qui e l'unica cosa che mi rimane da dire ad Alberto è veramente ben scavato, come dire, per citare un autore che credo, come dire, è più o meno caro a molti qui presenti. Ecco. Scusate bene. Per il tempo, non so. Bene, grazie Gianluca Bascherini che ha posto anche tutta una serie di quesiti, soprattutto quello della razzismo interno alla spinta egualitaria, ma anche rapporto tra razzismo e sessismo. Adesso do la parola a Sandro Triulzi, che non è soltanto africanista, ma è anche uno storico, uno studioso dei fenomeni sociali e politici che ha da dire molto anche sull'attualità. Sì, io naturalmente ringrazio Giacomo e la Fondazione per avermi chiesto di partecipare a questa presentazione di un libro che io penso sia importante. Io non credo di avere la capacità di analisi che hanno avuto le due persone che mi hanno preceduto, però vorrei sottolineare alcune cose che a me sembrano forse utili poi per una discussione più ampia. Dunque, noi ci troviamo in un paese chiaramente disperante da molti punti di vista, in cui non è avvenuto soltanto cambiamenti legislativi e prassi politiche deleterie, eccetera, ma è avvenuta una specie di catastrofe, come è stata definita stamattina, antropologica proprio. Cioè una catastrofe antropologica dei valori. Questo è successo in questo paese, e rispetto a questa catastrofe antropologica che noi abbiamo davanti è l'incapacità di trovare una strada condivisa e, se permettete, anche vincente, perché questo è il problema, che non si sta trovando una strada vincente per uscire da questo vicolo cieco. Allora io credo che libri come questi siano doverosi, ma che è solo l'inizio di un lavoro di scavo. Solo l'inizio di un lavoro di scavo che ci deve portare a essere molto più spietati con noi stessi. Il razzismo sta qua, sta in questa sala, sta tra noi, perché è proprio l'occhio di tenebra nostro di tutti i giorni. Cioè noi istintivamente, perché culturalmente portati a pensare in un certo modo, siamo razzisti. Lo sentiamo quando saliamo su un autobus affollato e vediamo la gente come si scansa, come evita, come lo vediamo come la polizia tratta i cittadini, tra virgolette, dagli immigrati. Poi tornerò sulla lingua. C'è tutto uno studio sulla lingua da fare. La polizia non parla italiano con gli immigrati, parla l'italiano coloniale, con gli infiniti e con gli ordini, che ricordano esattamente alcune delle modalità di comunicazione che ci diceva Alberto nel suo libro. Non c'è soltanto, se voi vi ricordate, Rocco e i suoi fratelli, la prima immagine di Rocco e i suoi fratelli è un carretto di migranti dal sud che passa e una voce, non c'è nemmeno una persona, dice l'Africa, ecco l'Africa. No? Ecco, su quest'Africa che collega secondo me la Torino o il Milano degli anni 50 con la Rosarno di pochi anni fa, noi dobbiamo veramente interrogarci, perché collegare i meridionali con le popolazioni colonizzate, gli africani, quello che a volte anche impropriamente Alberto chiama negri, anche se li mette sempre tra virgolette, ma un termine che vorremmo che fosse proprio stigmatizzato ogni volta che viene usato, eccetera, e c'è dietro quello straordinario laboratorio che è stato il colonialismo italiano, su cui naturalmente si è indagato quasi per nulla, e che la situazione di oggi ripropone. Noi siamo di nuovo non solo a un ritorno, tra virgolette, del razzismo, ma un ritorno della colonia e della colonia tra noi. Voi sapete che c'è un'associazione in Francia che si chiama Les Indigènes de la République, no? Quindi gli indigeni della Repubblica, che sono gli immigrati in Francia, no? Un grosso movimento di opinione. Questa cosa sta ritornando da noi. E mi sembra che questo, noi ci troviamo di fronte ormai a un ritorno proprio vistoso, istituzionale, diffuso, e qui apprezzo molto quello che è stato detto, credo Alberto più di lunga durata di quanto il tuo arco di tempo non faccia intravedere. Personalmente penso che noi dobbiamo tornare alla prima scoperta dell'altro esterno, che è stata la scoperta dell'America, cioè tornare a Todorov, quando dice l'Europa scopre l'altro nel momento in cui trova, e chi so, chi adesso, il selvaggio, no? Il selvaggio. Ecco, in quel momento, fino a quel momento, l'altro è interno all'Europa, ed è soprattutto l'ebreo, la donna o il pazzo, come dice Todorov. L'ebreo, la donna o il pazzo. Ma in quel momento lì si apre una nuova categoria, anche concettuale, di riferimento, che a causa della loro diversità sembra autorizzare tutto quello che c'è stato poi, cioè il chiedersi se sono o non sono uomini, se hanno o non hanno un'anima, se è tutto sommato è così drammatico renderli schiavi semplicemente trasportandoli da un continente all'altro e dandogli del lavoro. Quindi io tornerei anche su tutta questa questione della schiavitù, perché non si può non pensare che i parametri discriminatori dell'altro, portati avanti in tutte le forme dei sistemi coloniali, non soltanto in quello italiano, naturalmente con particolare gravità dal sistema coloniale fascista, non abbiano a che vedere con i 300 anni di schiavitù istituzionale, accettata, normalizzata nel nostro sistema. Quindi questo è il primo dato e lo dico oggi quando appunto c'è un problema a Roma, come voi sapete, in cui di nuovo la società, le istituzioni predicano la ricetta di sempre, cioè esclusione e assistenzialismo. Campi, l'Italia, c'ha ragione Agamben, scusate, l'Italia continua ad essere, come dire, un paese dei campi. Ci sono circa 121, credo, campi in preparazione in Italia. Cioè questo grande internamento di cui Alberto a un certo punto parla nel libro, noi lo vediamo, il sistema carcerario sta esplodendo, la popolazione straniera è circa il 5,8% in percentuale, la popolazione in carcere rasenta il 38%, non perché siano criminali, ma perché noi, e cioè la legislazione razzizzante e criminalizzante dei migranti, li ha resi tali. Quindi, come dire, questo disastro non solo istituzionale ma antropologico, perché noi non sappiamo porvi rimedio, apparentemente. Non ci indigniamo abbastanza per scendere in piazza. In realtà così strizziamo l'occhio in qualche modo, come sapete meglio di me, insomma, su tutta questa cosa che sta succedendo oggi. Oramai leggere i giornali è diventato sfogliare un calendario Pirelli. Gli italiani, quantomeno i maschi italiani, tanto più se più o meno nelle nostre età, Giacomo, e i loro desideri non raccolti o non raccoglibili, eccetera, trovano in tutto questo una forma di compensazione a livello diffuso. E il fatto che noi continuiamo a vedere queste televisioni, questo linguaggio, questi personaggi senza, come dire, urlare di rabbia, perché non ci rappresentano in qualche modo, noi siamo ancora in difficoltà a capire quello che sta succedendo. Quindi questa è la prima, come dire, osservazione, ma naturalmente molto benevola e, per carità di dire. Io però allungherei lo spettro e tornerai, sapete quando, a El Andalus, cioè la grande civiltà che ha preceduto la scoperta dell'America e la cacciata dei Moriscos e degli ebrei, che coincidono con un anno che si chiama 1492. La Spagna conquista Ceuta, che si dirà in qualche altro modo, Ceuta, non so bene come si dice in spagnolo, ma Ceuta. La Spagna conquista Ceuta nel 1498, e sapete che Ceuta è una grande prigione a cielo aperto di migranti che cercano di entrare in Spagna oggi. Ancora oggi, come dire, è simbolico, sono passati 500 anni. Allora, la prima, come dire, sforzo, naturalmente io sono modestissimamente uno semistorico, anch'io indisciplinato come quelli che mi hanno, come in genere si trovano da queste parti, per fortuna siamo tutti indisciplinati, e quindi io, come dire, cominciamo a ristudiare quello che ha preceduto, no? La cacciata, e che ha reso tutti questi altri che stanno tra noi dei marrani, no? Non solo gli ebrei, ma i meticci, i migranti di oggi, impossibilitati a dire il vero, perché il vero li porta alla criminalizzazione, e quindi abituati a strutture di menzogna con se stessi e naturalmente spaesamento, perdita di sé. Questa questo disastro antropologico che noi, mi sembra, stiamo osservando oggi. Allora, per capire questo, oltre naturalmente a fondare le radici della nostra comprensione e anche però a individuare, che mi sembrerebbe interessante, un modello di convivenza e di tolleranza, qual è stata l'Andalusia, cioè l'Europa cristiana e musulmana che aveva gli ebrei, i cristiani e i musulmani tra sé, in un modello di convivenza che è durato 4 secoli. Perché dobbiamo soltanto pensare che il mondo va così? Ma il mondo va così a partire da un certo momento. Cominciamo a rivedere i momenti precedenti. Allora, in questo naturalmente il colonialismo, mi dispiace di tornare su questo ancora una volta, alcune cose sono state già dette, è il laboratorio straordinario. Il colonialismo, il sistema, ma tutti i sistemi coloniali sono stati il laboratorio, la sperimentazione del rapporto con l'altro. E di una forma di rapporto con l'altro che è di dominazione, che non è un sistema, qualunque sistema coloniale non può essere paritario, è la minoranza che prevale sulla maggioranza, no? Valandier dice la minoranza sociologica che prevale sulla maggioranza numerica, questo è il colonialismo. E quindi lo studio del... cioè il non studio del sistema coloniale italiano, il continuare a dire sì, va bene, siamo stati lì, sì, va bene, abbiamo, sì, certo, ma abbiamo costruito strade, ponti, eccetera, non solo, come dire, è una inesattezza, ma non porta a caricare abbastanza il fatto che l'Italia è stata 60-70 anni in colonia e non ha mai pensato di dare un sistema di istruzione che andasse oltre la quarta elementare. Oltre la quarta elementare. Perché i colonizzati non stavano lì per avere un rapporto egualitario, ma erano lì perché erano oggetto di dominio da parte del moderno, più moderno colonizzatore bianco. Allora ritorniamo a studiare, allora richiediamoci perché non si parla di questo periodo coloniale, perché, Alberto, e qui una seconda cosa nel caso che tu volessi fare una seconda edizione, un domani, Alberto dice c'è stato una varie tappe del colonialismo, c'è stata la tappa che ha portato all'apartheid italiano. Noi quando vediamo, leggiamo la parola apartheid, pensiamo subito a Sudafrica e a Mandela. Non pensiamo mai che Asmara è stato il luogo di prima sperimentazione della separazione delle razze. E che questa separazione naturalmente è peggiorata con le leggi razziali, ma stava già lì. Se uno si legge le scritti del governatore Martini, sta già lì dal 1800, non si può permettere agli indigeni, ai nativi, perché se no si ribellano. Se gli si dà troppe istruzioni si ribellano e quindi bisogna tenerli lontani. E poi c'è il cordone sanitario, e poi c'è l'igiene, e poi c'è la sicurezza, e poi tutti e poi, e uno sente Maroni, cioè, no? Poi uno dice, ah ma caspita, ma è esattamente, è esattamente questo. E allora la questione migranti, signori, è la cittadinanza e non altro. È la voglia di questa Italia antropologicamente scorretta che ancora persegue un rapporto cittadino-suddito in questo paese. Non solo a livello economico, ma anche a livello di rapporto con l'altro. E allora noi stiamo parlando di questo. E allora veramente noi dobbiamo aver paura di questo senso comune, no? E questi continui slittamenti di senso che il linguaggio quotidiano ci... sapete, questi campi che si chiamano centri hanno due nomi. Uno che è CARA, centro di accoglienza per i richiedenti asilo, che è quello per i buoni, cioè quelli a cui è stato dato un riconoscimento, protezione sussidiaria, umanitaria, raramente rifugiati, l'Italia riconosce pochissimi rifugiati, e l'altro sono i CIE, centri di identificazione e di espulsione. Allora, anche nell'uso di queste parole, e quando gli si dice ma questi sono prigioni, no, sono centri di identificazione, li possiamo tenere, sapete, fino a 6 mesi dentro e poi li espelliamo. Cosa peraltro che non avviene, perché espellere una persona costa e l'Italia non ha i soldi per fare questo. Quindi li si rilascia perché questo alimenta un altro come dire, circuito su cui invito alla riflessione, che questa cosiddetta guerra ai migranti è una falsa guerra, perché è una guerra che da un lato criminalizza, perché serve politicamente a fare questo, per tutte le funzioni compensative che sono state descritte qui, perché dà un senso di comunità, perché noi siamo noi proprio in opposizione a loro, eccetera, ma di fatto permette a centinaia di migliaia di persone di essere manodopera, diciamo, non solo a buon mercato, ma di essere a straordinariamente buon mercato, tanto da competere con l'Est, tanto da competere con le tigri cinesi o indiane o indonesiane, perché quel tipo di lavoro non costa tanto più della manodopera laggiù. E se noi ancora non, come dire, delocalizziamo abbastanza, è perché ci sono queste persone che noi trattiamo così. Quindi, come voi sapete, in Italia ci sono 5.800.000, quasi tutti regolarizzati, perché sono stati, tra virgolette, sanati. E questo governo è il governo che ha sanato di più di tutti gli altri, e però continua in questa imperscrutabile, no, efferata azione di criminalizzazione. Letizia Moratti ha detto, sapete, gli emigranti normalmente, se non hanno lavoro, normalmente delinquono, ma delinquerei pure io se non avessi di che mangiare, cioè delinqueremmo tutti, no? Allora, questo è di quello che stiamo dicendo, e se lo possiamo fare perché abbiamo alle spalle quello che abbiamo avuto, di cui non abbiamo voluto, sarebbe troppo complicato cercare di spiegare perché, ma l'Italia ha perso le colonie col trattato di pace del 1947, la decolonizzazione noi l'abbiamo proprio saltata a più pari. Non abbiamo avuto un'Algeria, non abbiamo avuto un Congo, non abbiamo avuto i Mau Mau, non abbiamo avuto il terrorismo per strada nelle piazze come c'è stato in Francia, e quindi c'è stato il terzo mondismo, che era molto, molto diverso, no? Consolatorio, anzi, noi era, vi ricordate, no? La pira, i cattolici per il... tutto, insomma, ma anche svolto un ruolo abbastanza importante, certo, perché era facile fare questo. Ma questo ha permesso che noi non abbiamo minimamente rimesso in questione che cosa è stato, che cosa ha comportato l'impero. Ragazzi, ma noi abbiamo avuto un impero per 5 anni. Siamo stati imperialisti, ma anche imperiali. E l'Albania, anche questo è interessante, l'Albania era parte dell'impero. E la prima nave carica di migranti, indovinate un po' da dove veniva, e vi ricorderete il Presidente del Consiglio che si mosse, andò giù a Bari a riceverli. Furono tutti messi, tutti 50.000 messi nello stadio, gli fu detto che gli sarebbero stati accolti, eccetera. Il giorno dopo, con una nave, sono stati tutti riportati indietro, come dire, no? Questo è quel fatto per cui The Empire Strikes Back in Italia non strikes molto, e invece lo sta facendo. E lo sta facendo, e mi sposto brevemente sull'aspetto che mi ha molto interessato, che è quello linguistico, che credo che andrebbe veramente esplorato. Io sono uno storico dell'Africa, ma negli ultimi 5 anni mi occupo di insegnare l'italiano ai migranti. e attraverso l'insegnamento degli italiani migranti io registro memorie, testimonianze e metto in piedi, sto mettendo in piedi una piccola cosa che si chiama archivio delle memorie migranti, perché penso che di questa traccia, della catastrofe antropologica, occorre lasciare una traccia, ma anche occorre dare una voce a questi migranti perché assumano loro il diritto di parola. Allora, la lingua con cui le istituzioni parlano agli altri, agli estranei, ai clandestini, ai migranti, è la lingua del comando, non c'è dubbio su questo, è la lingua degli ordini. Così come se pigliate i dizionari coloniali di un tempo, il frasario, l'italiano che si imparava era vai, vieni, apri la porta, chiudi, torna qui, obbedisci, pulisci, capito? No? Cioè tutta una serie di comandi. Su questi aspetti della cultura italiana noi non abbiamo abbastanza indagato, se no non, veramente sarebbe difficile, come dire, capire per quello che sta succedendo. E mi sembra che la lingua del comando e la lingua dell'uomo che parla o della persona che parla, la non persona, è il tono dominante del sistema coloniale e di quello che sta succedendo oggi in Italia. E la soluzione, diciamo, di Alemanno per i Rom è perfetta in questo. I Rom vanno messi tutti, i Rom sono tutti nomadi, quando ormai è provato che l'80% dei Rom in Italia non sono più nomadi. Non sono più nomadi, ma sono nomadi, quindi si insiste su questi vecchi cliché, eccetera, vanno tutti messi nei campi, i campi debbono essere militarizzati, ci deve essere sicurezza, e bisogna entrare e uscire con le guardie al cancello, e questo è il grande internamento di cui stiamo, cioè l'Italia si sta popolando di queste sacche, no, di internati eccetera, che io vedo con grandissimo terrore. Cioè Auschwitz non sta ancora qui, per fortuna, e forse non ci sarà, speriamo, mai in questa cosa, però anche, come dire, rendiamoci conto che Auschwitz ha, nella sua eccezionalità, però c'ha un carattere di quotidianità, universalità e banalità che non solo è riproponibile, ma è minacciosamente riproponibile nell'Italia di oggi. Io per tutti questi motivi penso che questi argomenti sono veramente... vorrei finire con una cosa che è questa... c'è un bellissimo racconto di Matsveta Devi che si chiama Sotto il corsetto, che è stato argomento di un film di Spinelli premiato al Festival di Roma, che si chiama Gangor. Sotto il corsetto è la storia di un giornalista che va in una zona tribale, tra virgolette, che sarebbero le nostre zone meridionali, diciamo, però molto peggio, eccetera, e fa la fotografia di una donna che allatta un bambino. E questa fotografia della donna che allatta un bambino in realtà è una fotografia che, diciamo, che nell'India, eccetera, crea, spiegata dalla Devi, spiega che... E che si comincia questo grande dibattito, ma è lecito a un giornalista mettere il seno nudo di una donna su una pagina di un giornale indiano. E la Devi, in questo breve racconto Sotto il corsetto, e tutta l'India partecipò a questo grande dibattito sul se era giusto o non giusto mettere in evidenza il seno prosperoso di una giovane donna che allattava un bambino. E non si è parlato delle grandi questioni che stanno dietro il corsetto, che sono la fame, la miseria, la situazione dei tribali, quello che succede, il sistema neoliberista, lo sfruttamento, l'emarginazione, eccetera. Io ho l'impressione che oggi si parla di Rubi, dico per questo motivo, esattamente per questo, non gliene frega niente a nessuno, ma... tranne naturalmente andate tutti il 13 a fare la manifestazione, però sostanzialmente non ne frega niente a nessuno, ma ci permette di non interrogarci sulle vere piaghe e catastrofi dell'Italia di oggi. Grazie. Grazie, grazie Sandro. della... No, i temi che hai toccato sono tantissimi, è una cosa... No, mi hai ricordato la cosa del califfato di Cordova, dove c'erano ebrei, cristiani e islamici, però era appunto un califfato, eh? L'evocazione di un esempio di convivenza gestito da un potere arabo, dove potevano convivere negli stessi anni e scrivere il massimo filosofo ebraico, ebreo medievale, Moshe Ben Maimon, cioè Maimonide, che scrive appunto in arabo, la sua appunto opera appunto principale, Dalatat al-Hayrim, la guida dei perplessi, e è il più grande filosofo arabo medievale, Ibn Arabi, che scrive dei testi assolutamente straordinari, secondo me per molti versi insuperati. Insomma, è stato all'Orientale. Sono stato all'Orientale, 20 anni all'Orientale sono molto importanti, qui un po' di arabo ogni tanto, di ebraico là. No, ma soprattutto poi il punto, mi pare, la chiave era tornare su questo tema della catastrofe antropologica che investe anche noi, quali sono le radici della narcotizzazione e mitridatizzazione dei soggetti davanti allo scempio che sta accadendo dinanzi ai nostri occhi, che secondo me viene ben prima della questione morale, questione proprio di indecenza. Ci sono determinate situazioni che semplicemente ricadono sotto una estetica indecenza, proprio non, sono cose indecenti che non andrebbero neanche tollerate. Va bene, siamo tutti ansiosi di ascoltare appunto il nostro Alberto Burgio, quindi... Io che posso dire? Che vi ringrazio moltissimo, voi presenti e quanti hanno parlato, anche perché, lo dico e lo dico in modo davvero sincero, oggi è capitato che chi ha scritto un libro se lo veda restituito con un'amplificazione straordinaria di senso. E lo dimostrano le 4 pagine fitte di appunti che ho preso, che sono dense di cose che non sapevo fossero suscettibili di essere individuate a partire da, o anche semplicemente dette a partire da, quello che ho provato a scrivere. Quindi non mi sento in grado di aggiungere, posso solo aggiungere, diciamo, come chi ha scritto il libro, posso aggiungere come colui che insieme a voi ha ascoltato le parole che sono state dette e parla a partire dalle parole che sono state dette. Allora la prima cosa che mi viene in mente riguarda un paradosso estremamente istruttivo, come spesso i paradossi sono, che riguarda il nesso tra la quotidianità nostra e questa vicenda che noi riconosciamo come inaudita e come, diciamo, assoluta nella sua violenza atroce. Il paradosso qual è? Il paradosso è che quella vicenda, parlo dello sterminio pianificato, parlo, diceva Giacomo all'inizio, il razzismo riemerge proprio nei paesi più civilizzati, no? E questa è già una cosa che ci parla, è una eco limpida del Novecento, no? Ecco, il paradosso sta nel fatto che quello che è l'evento che riconosciamo come estremo, in qualche modo è la chiave per capire la nostra quotidianità banale, no? L'estremo illumina il banale. Questa è una contraddizione enorme, ma straordinariamente istruttiva, perché se è vero questo, allora vuol dire, direbbe Hegel, allora vuol dire che l'estremo è la verità del banale. Cioè vuol dire che dentro questa nostra banalità quotidiana, tranquillizzante, normale, insignificante, noiosa, scarsamente avvincente, ci sta, è immanente, alberga quell'estremo. Questa è la questione che dopodiché ci sta dentro tutto quello che avete detto, cioè, e non è moralismo. Quando Sandro alza i toni, non è che lo fa perché a noi adesso così la mozione degli affetti, no, è perché noi dobbiamo mobilitare coscienza e ragione, non sentimenti, diciamo, a buon mercato, coscienza e ragione, perché davvero ci scopriamo degli analfabeti su noi stessi. Riflettendo come avete fatto voi su questa questione. D'altra parte vorrei anche dire, mi viene in mente quando dice non ci rappresentano, no, forse ci rappresentano. Questo poi è la cosa che davvero l'incubo. L'incubo è questo, perché non è che tanti italiani li votano nonostante, no, forse tanti li votano in quanto. C'è una consonanza che ci deve. E d'altra parte c'è un'altra. Prendo da Sandro un filo, no? Scusa, quando gli italiani vanno lì e organizzano un sistema scolastico che impedisca la crescita, mutatis mutandis l'uso della televisione oggi, dove i colonizzati siamo noi, no? Perché poi c'è anche questo, noi siamo coloni e colonizzati, perché poi i sistemi di dominazione hanno anche questa di operatività, che colonizzano, no? De André diceva, il secondino non sta in carcere meno del detenuto, no? Cioè, forse è un po' più comodo, perché poi è arrivato una certa ora smonta, però insomma, questa era la prima cosa. La seconda cosa riguarda il dispositivo, no? Il dispositivo. A proposito anche del largo stretto, no? Bascherini diceva questa cosa del sessismo. È curiosa, no? Perché effettivamente è vero, è un po' largo perché ci sono dentro anche le donne, poi è stretto perché non c'è abbastanza colonialismo. Allora io vorrei chiarire questo. Io non lo so se il sessismo sia razzismo, perché non mi interessa tanto compilare un vocabolario, no? Per cui che cosa ci metto dentro nel lemma? Perché anche i lemmi hanno questo di caratteristico, sono necessari, però sono fissi. A me quello che interessa è se esistono analogie nei processi e quindi nella forma di relazione. Allora, provo a dirla così, poi giudicherete voi se anche nei confronti delle donne la nostra cultura occidentale, con buona pace di Habermas, genera o non genera razza. Che cos'è il razzismo, secondo me? Qui poi vengo alla periodizzazione. Dopodiché tu mi hai aperto enormi questioni, però forse c'è un motivo per cui io stringo un po' di più rispetto. Il razzismo non è la pratica della discriminazione. Il razzismo è il discorso attraverso cui tu operi sulla discriminazione per giustificarla, per mobilitare consenso e per governare relazioni. E questo discorso, che è un discorso sulla differenza, per cui la razza non è la differenza, ma è una operazione sulla differenza, Questo discorso viene dopo il fatto, Sandro. Il fatto è cinquecentesco e seicentesco, ma i discorsi che mobilitano determinati saperi, che sono saperi del corpo oltre che della mente, sul corpo oltre che sulla mente, no? Le nuove scienze, l'antropologia, la frenologia, la fisionomica, il mix tra estetica e filosofia. Questo è settecentesco. Dopodiché, che gli input siano largamente anche tributari all'esperienza coloniale, non c'è dubbio. D'altra parte si può risalire ulteriormente, perché anche molto prima del colonialismo c'è l'altra grande questione, che è l'antigiudaismo. Perché la modernità a queste fonti, sicuramente la conquista delle colonie e la pratica di dominazione coloniale, ma anche il dialogo brutale tra cristianesimo e giudaismo. Quindi, però io credo che, appunto, se distinguiamo tra il fatto e i discorsi che lo interpretano e lo rendono uno strumento, lo giustificano e lo mettono a valore nelle pratiche di dominio, allora forse, e questa era la seconda cosa, e poi c'è la questione della lingua, perché questo che avete detto è importantissimo, cioè questa faccenda che la lingua è sempre più evidentemente un terreno. Io ho analizzato solo un piccolo capitolo, peraltro avvincente, perché, come diceva Bascherini prima, questi spostano sul sangue perché si trovano in difficoltà sulla lingua. Dopodiché tornano alla lingua e lavorano sulla lingua in una maniera straordinaria. Perché non è solo la lingua del comando, sicuramente è la lingua del comando, ma poi è una interpretazione spiritualistica del nesso tra lingua e essenza della comunità, per cui si dice che l'ebreo che parla tedesco non parla veramente tedesco, perché il tedesco dell'ebreo non è vero tedesco, no? E quindi c'è Schmitt che mette in movimento tutta questione, bisogna che voi, come bisogna che gli mettiamo la stella addosso, così bisogna che nelle citazioni aggiungiamo un prenome all'autore perché chi legge sappia che sta leggendo un tedesco spurio. Pensate, cioè uno dei tedeschi, degli esempi, tra gli autori più alti della letteratura tedesca ci sono israeliti, ovviamente, ma quel tedesco viene derubricato e questa è una cosa effettivamente, io non avevo pensato, questa cosa che tu stai facendo con i migranti, nel dire parlate, scrivete, dovete avere voce, è una cosa fondamentale, forse è uno dei gesti di resistenza e di produzione di soggettività più importante che si possa fare. E quindi dice, come dicevo all'inizio, come vedete, non era affatto un complimento. Io vi ringrazio moltissimo perché effettivamente mi avete insegnato un sacco di cose. Grazie Alberto. Una battuta, ora darò la parola a battuta. Pochi ricordano l'argomento iniziale del Mein Kampf di Hitler, che non è un argomento immediatamente razzista, ma è incredibilmente subdolo. Dice, nella nostra epoca vi è un fenomeno che la lingua tedesca e la cultura tedesca si è diffusa enormemente in popolazioni diverse. Le popolazioni ceche, popolazioni slave, popolazioni ebraiche della Mitteleuropa e via dicendo. E uno si aspetterebbe, ma che bello, proprio qui è l'origine dei nostri mali. Comincia dalla lingua. La lingua e la cultura tedesca si sono diffuse in comunità non di origine tedesca. Voi dice, ma bello, si sono diffuse. No, qui è l'origine dei nostri mali, esattamente a conferma di quello che tu stai dicendo. E Goebbels pensa, sì, pensa di fare dei dizionari speciali esattamente. Esattamente.